tour de force veramente di quelli quasi insopportabili da parte di dei Phillips, per tensione emotiva, per tensione sonora che portano appunto a quasi a un'estremizzazione del, appunto, del concetto suo espresso di homo animalis, quasi a controllare forze bestiali incontrollabili. Avete sentito queste sorte di bestie, animali che si muovono e che appunto con versi, versacci stanno quasi ad attentare alla stessa struttura del pezzo, che e poi ha dei momenti che ricorda quasi il continuum di Ligeti, con queste sonorità acute estremamente continuative appunto nel tempo, che vanno poi a rompersi con questi suoni di ultra bassi che provengono appunto quasi da mondi bestiali che al limite vengono appunto gestiti da dei Phillips, che si attesta come uno dei grandi, insomma, del noise elettronico, e non solo. Appunto, prima accennavamo anche al suo progetto da un po', a dire la verità, che non fa faccende con Schimpflug, anzi lo dico un po' meglio, Gruppe, però di fatto, insomma, ha solcato una carriera anche piuttosto importante dentro al noise, d'altronde come quella di Lasse Marhaug, lo dico proprio così, norvegese, non saprei, insomma, e non mi avventuro, insomma, nella pronuncia corretta del norvegese, che è uno dei insomma, quasi per antonomasia è l'autore scandinavo del noise da molti anni, che anche lì lavora con materiali assolutamente incontrollabili, appunto il rumore bianco, poi in realtà non lo so, non lo so ne come, chiaramente il riferimento non può che essere al grande Masa Makita, a Merzbo, che in maniera magistrale da più di 30 anni, insomma, lavora appunto con quel suono, prima in maniera analogica, poi in maniera digitale. Magari avrete avuto modo anche di sentire un Merzbow piuttosto raffinato in 451 intersezioni lunedì, addirittura quasi jazzistico, ma tant'è, insomma, che anche Lasse Marhaug e lo fa poi d'altronde da un po' di anni, sta lavorando anche con materiale che l'allontana, insomma, da quella definizione sia pur larga, insomma, del noise, ma lo fa avvicinare più a quegli autori che probabilmente potremmo definire, insomma, elettroacustici contemporanei, in maniera altrettanto larga, ma ancora non c'è una definizione. Probabilmente è anche bene che sia così, perché, insomma, sono musiche che vivono nell'essere indeterminate, e ricordando, insomma, il grande Cage, appunto, con il concetto dell'indeterminatezza e appunto anche quello dell'opera aperta, e quindi del riuscire appunto sempre ad aprire a questioni, a situazioni, a suoni che ci portano sempre in un altrove musicale. Lasse Marhaug lo ascoltiamo con Bruce Willis, anzi Bruce Russell, Willis è un'altra faccenda, però, insomma, la pelata sicuramente è quella, quindi, insomma, dalle foto potrebbe anche ricordare, insomma, l'attore, ma solo quello, perché poi per il resto la faccenda appunto è legata al noise. Bruce Russell, neozelandese, lavora in questo caso appunto con il norvegese Lasse Marhaug per questo Virginia Plain, e fanno una provocazione bella e buona. È sempre stato un po' dentro le corde delle avanguardie che fanno parodie dei loro padri, quasi appunto il parricidio, che è uno dei momenti topici delle avanguardie, e appunto delle neoavanguardie che uccidono appunto i loro padri, ma d'altronde, insomma, è questo, se andate a leggere insomma il primo manifesto compiuto dell'Avanguardia, insomma il manifesto futurista, trovate un passaggio proprio che è molto chiaro sul fatto insomma di gettare poi e di buttare a cartocciare anche gli stessi avanguardisti storici, perché appunto poi non ce n'è più bisogno, perché c'è poi le nuove leve che riprendono per disfare, per ricreare o addirittura per rompere in maniera insomma creativa, perlomeno in questo caso insomma Virginia Plain se la così prende in maniera parodica con la Monte Young, anche egli toccato, quasi un intoccabile in realtà, parodano, ma lo fanno anche con poi quel senso della parodia che è anche citazione, perché no, e in effetti il pezzo si chiama In a Dream Non House, come vorrebbe la Monte Young, ma In a Dream Home, quindi insomma una parodia, ma anche se vogliamo poi tutto sommato neanche anche abbastanza affettuosa, ecco, dentro un suono che è riconosciuto anche come trattamento del grande, del geniale californiano, insomma padre anche egli dell'avanguardia, in questo caso minimalista. Ci andiamo appunto ad ascoltare questo lavoro, quest'altro gioiello di Lasse Margao insieme a Bruce Russell, Virginia Plain, appunto con il pezzo In a Dream Home, e poi sentiremo Lasse Margao insieme a delle guastatrici, a questo punto non soltanto gli uomini, e tra l'altro con un disco che si chiama All Men Are Pigs, chissà che abbiano ragione, e The Female, però tant'è che hanno chiamato un personaggio insomma maschile, quindi insomma anche lì la contraddizione, la provocazione è continua, e così insomma vogliamo qua 451 frammenti sonori perlomeno questa sera, ma forse non solo questa sera. Yeah.

Beh, se volevamo qua una provocazione, le belle female ci davano, anzi, veramente dentro con un noise che sfiora, insomma, è quasi appunto l'incontrollabile, come dicevamo prima, con dei Philips, con il suo Homo Animalis, in questo caso aiutate da Lasse Marhaug, e qua c'è un incontro, insomma, del suono nordico europeo e noise che va a impattare con tanto di sperimentazioni sul frequenziale e appunto quasi a chiudere così lo sfottò decisamente, insomma, icastico di Femmine insieme a Lasse Marhaug, è quasi il metal intrasentito, insomma, del finale. All Men Are Pigs era il titolo del disco. Che insomma da tra l'altro signorine anche piuttosto graziose che sgraziano così in termini musicali non può che farci, insomma, piacere, sorridere, insomma, anche con quel sorriso beffardo che magari porta molto noise dentro le proprie corde, ma non soltanto sonore, ma anche appunto di linguaggio tout court, uno dei suoni, insomma, più difficili chiaramente da recepire, ma probabilmente bisogna semplicemente spostare l'asse d'ascolto, il punto non di vista in questo caso, ma appunto quello d'ascolto dell'orecchio, spostare l'asse appunto da un suono così codificato dentro poi un sviluppo che porta evidentemente anche nei momenti più pop verso il rumore, in questo senso Russolo, insomma, fu assolutamente così geniale, non solo, insomma, anche proprio per il percorritore di un qualcosa che comunque sarebbe venuto dentro il Novecento e che è tuttora, insomma, si sta sviluppando, ovvero una musica che si sposta più sempre verso il rumore. Se sentiamo, insomma, anche il pop più commerciale, sentiremo degli elementi rumoristi. Qua la cosa è svelata e trattata appunto attraverso quella manipolazione diretta sul suono rumore, sul noise. Le Female, che tra l'altro facevano uscire proprio a compimento del loro progetto, poi magari lo riprenderanno, sono state attive dal 2002 al 2006, facevano uscire un gioiello noise sperimentale come Blixter Todd, che seriamente, insomma, porta la faccenda del noise verso quel ponte che stiamo trattando questa sera con questi agent provocateur, e quindi anche un suono, se vogliamo, che raffina quel noise, il digitale in questo senso, e prima appunto citando Merzbow, che ha avuto, insomma, due fasi molto molto anche delineate in termini sonori, appunto quella analogica e digitale, il noise trattato appunto attraverso il beat digitale, ci porta chiaramente verso altri approdi sonori, quelli che abbiamo ascoltato con Cat Hands, ma che appunto già Female con il loro Blixter Todd andavano a sviluppare, proseguendo appunto quella grande sperimentazione di Masami Akita. E ci andiamo appunto a tuffare ancora nel mondo omaggiando, insomma, queste due spazze scatenate, Maya, anzi forse anche qua mi lancio un po', però appunto in nord europeo, da Scandinavo, insomma, non lo tratto, ben pochi, insomma, lo trattano da queste parti, Maya Radke e Hilde Sofia Tafjord, probabilmente così, tra l'altro se Hilde Sofie Tafjord ha fatto meno lavori dal 2006, da quando, insomma, è stato sciolto il progetto Female, invece la Maja Radke è piuttosto attiva, e tra l'altro anche qua, come prima accennavamo a dei Philips, è molto vicina a quell'impro noise che, insomma, sta dando anche grossi prodotti tutti, se insomma non la parola insomma non fosse fuorviante, grossi insomma processi dentro un suono che è appunto anch'esso in eterno divenire, collaborazioni con grossi personaggi, l'abbiamo trattata qualche tempo fa con Jap Blanc, ma appunto la Radzke è arrivata anche a collaborazioni con Ikue Mori, quindi una sorta di totem dell'impro radicale di questi ultimi insomma 30 anni perlomeno. Ce l'andiamo appunto ad ascoltare però appunto la Maya Radke con il suo progetto Female, loro Blixer Todd, visto che appunto dentro il progetto non ci scordiamo insomma c'era anche appunto Hilde Sofie Tafjord. Bene.

La provocazione forse finale, ma non è vero, poi in realtà abbiamo ancora spazio per un'altra faccenda, insomma, legata insomma alla Gen Provocateur di questa sera di 451 frammenti sonori. Comunque, come le female abbiano tratto da una specie di cappello magico questo coniglio, questo White Rabbit bellissimo che è ballad, come si possa fare col noise, e anche una ballata vera e propria, perché insomma dentro Blix e Tord abbiamo sentito due pezzi, uno senz'altro legato alla noise, seppur insomma con tanto di sperimentazione sulla vocalità, sia di Maya e Radke che di Ilf Sophie Taff Yord, che tra l'altro avevo detto era un po' sparita, poi in realtà ben controllando è uscito un disco proprio in questi ultimi mesi, magari riusciremo anche a recuperarlo, la parte della norvegese, insomma, questo che stava appunto nelle Female, quest'ultimo disco. E come appunto si possa far uscire anche da questo cappello magico un suono che appunto, come dice la stessa titolazione, è una ballata anche piuttosto dolce, se vogliamo, con assolutamente anch'essa non noise, quindi trattamento del rumore, ma tant'è che l'arte della manipolazione delle female dentro altro Bixler Todd portano anche appunto a questi momenti decisamente delicati anche. E per concludere, sempre un po' citando le Female di All Men Are Pigs che prima abbiamo ascoltato insieme a Lasse Maraug, forse hanno anche ragione, visto che dei maschietti come i Derita, anche qua insomma i giochini provocatori e provocanti anche sono tanti. Derita non è affatto progetto italiano, anche se con l'Italia hanno molto a che fare, visto che è uno dei due, Sam McKinley insieme a Baku, così insomma il soprannome di uno dei due Derita, spesso insomma si lancia in così citazioni di attrici soprattutto italiane legate probabilmente a un immaginario erotico così forte, insomma, dentro anche appunto Sam McKinley, che ha un progetto che si chiama Edwige. Chissà a quale Edwige si sta riferendo, se andate insomma su internet e cercate insomma Edwige di Sam McKinley, capirete immediatamente che si tratta di Edwige Fenech. Ma d'altronde Derita, già appunto in duo hanno fatto una citazione, anzi più di una citazione, 8 cassette uscite in maniera così continuativa e dedicate alle calze, come in copertina insomma si vede, di Laura Antonelli e Antonelli Nylon. Potete vedere insomma una scena anche piuttosto famosa, tratto probabilmente da Malizia di Samperi, film insomma che avrà anche in maniera provocatoria e provocante, a questo punto ci vuole insomma, influenzato l'immaginario sonoro di Derita, che portano quasi a una specie di neutralizzazione totale del noise, del rumore bianco, trattato è quasi è come se fosse un sottofondo assurdista che appunto viene reiterato in continuazione in queste cassette appunto dedicate a Laura Antonelli. Chiudiamo così con questa Jeune Provocateur, questo progetto folle, incredibile, che è appunto quello di Derita, con questi ultimi minuti, quindi toglietevi per un attimo insomma dalle orecchie e la bella ballata di Female, la bella ballata noise, per entrare invece in un mondo quasi neutralizzato dal rumore di Derita. Vi rimando a 451 intersezioni con Eliseo Scarpa e vi rimando chiaramente a 451 frammenti sonori in compagnia mia di Max Macchia. Alle prossime, insomma, un saluto anche al nostro blogger Lorenzo Albano, che cura la faccenda appunto 451 frammentisonori.noblogs.org. Ho detto tutto, anche questa volta. Vi saluto e vi rimando appunto ai prossimi appuntamenti. Ciao.